passione. Volare per separarmi dal cuore. Dominio completo del tuo ardore. Colore, il bianco color dell'amore. Come un burattino sospeso. Guardando al mar.